Pronto? K, Drago, qui dobbiamo cominciare, l'acqua dov'è? È l'acqua. È l'acqua, io non ve l'ho potuta prendere, non ho avuto il tempo, ragazzi. Perché? Perché stai lavorando su un altro programma. Scusa. No, proprio... Ma cosa fa? Mi mette giù? Hai visto? Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K dal tubo e dal figlio dell'idraulico. Sì, Drago, il figlio dell'idraulico, eccomi qua. Allora, buona settimana a tutti. La famosa barzelletta, il colmo per un idraulico è avere un figlio che non capisce un tubo. Ma infatti, non si capisce più un tubo. Ah, questo è il collegamento a questo. Cioè? I repubblichini, sul sito repubblica.it, i repubblicani, insomma, quelli che hanno scritto sul sito di repubblica.it, c'è gente che scrive, sono i giornalisti di repubblica.it. Allora, hanno fatto un occhiello in cui si leggeva che Di Pietro ha fatto il gesto dell'ombrello. No, bambino Saccone. Anche il bambino Saccone, quindi qui avevo dimenticato. E poi che il bambino Formigoni ha mostrato il dito medio. Insomma, sembrano le note sul diario che si danno alle medie. Sì, però i repubblichini devono smettere di fare le spie. I giornalisti di Repubblica.it. Ma perché le spie? Ma come non si fa mai la spia, Drago? Chi fa la spia non è figlio di Maria. Ho capito, infatti mia madre si chiama Lina, non si chiama Maria. E l'uomo nero viene e li porta via. Quindi, se uno vede dei bambini che si comportano male, deve tenerselo per sé. Questa è la legge dell'asilo. Veramente, questa è la legge dell'omertà mafiosa. Allora, chiediamo al bambino mafiosa. Alberto cosa ne pensa. Vedi che c'è lo scaccio pensieri appena. Stai attento, che è molto pericoloso. Suonare. Bambino Alberto, tu che vedi proprio il mondo con gli occhi dell'asilo. Tu, se vedi il bambino Di Pietro che fa, che ne so, il gesto dell'ombrello, lo vai subito a dire a Suor Dentona? Dipende. Ma da cosa? Vabbè, da tante cose, no? Prima di tutto dall'opportunità di fare o meno la denuncia, no? Vedi se c'è il don't des. Ma come fa? Ma che do des? Cosa stai dicendo? Parli Cos'è? Tutto come forbito. Come parli tutto forbito come Forbes. Come chi? Ma chi è? Preparata anche, è forbito come Forbes. Vabbè, comunque diciamo che in generale, come regola generale, la spia non si fa mai. Vedi? Vabbè, scusa, non è mica giusto. A me mi hanno insegnato che, insomma, se qualcuno fa una cosa brutta bisogna segnalarlo. Sì, ma neanche per una questione di onestà. Cioè, scusate, se uno fa la spia, poi succede che qualcuno prima o poi farà la spia contro di lui, no? Sì, poi si scatena una faida incontrollabile. Addirittura. Poi noi rapper facciamo il freestyling. Sì. Noi dobbiamo combattere la faida, no? Fight the faida. Sì, no. We gonna fight the faida, sì, no? Fight the faida è uno dei più bei pezzi italiani degli anni 90. Non rovinarmelo tu, bambino Alberto, almeno fai no, non offendere perché fai così. Comunque vedi che anche il bambino Alberto, che è un bambino vero, che vive la sua condizione di bambino ogni giorno qui all'asilo, anche lui pensa che Repubblica.it poteva anche evitare di mettere nella colonna dei cattivi Di Pietro, Formigoni, Buoni. Scusa, fosse stata solo Repubblica.it, la notizia è stata data da tutti i media. Perché viviamo in un mondo di spie, Drago. Ha ragione l'ex bambino premier. Tutti si fanno i fatti degli altri, poi basta essere sono complottista, dici due stupidaggini, ti danno retta. Ormai è così. È una faida. In questo caso addirittura bipartisa, perché il bambino Di Pietro e il bambino Formigoni stanno all'opposto dello scacchiere politico, però, come dire, si lasciano andare tutti e due a gesti inconsulti, per non parlare di Romani, l'altro ministro che è tutto bello, coi capelli bianchi serio. Martin. Sì, e invece poi uno sbracatone, si mette a urlare ma vaff l'indirizzo dei cittadini che lo insultavano a loro volta. Cioè, successe delle cose che veramente. E tu invece sei uno di quelli che porge l'altra guancia. Certo, è così che si mostra fa. Mostra l'altra chiappa. Ma bravo. Ma se uno ti manda a quel paese, tu lo mandi a quel paese. È giusto, è una faida, no? E noi dobbiamo fermare la faida. Sì, con l'omertà. Io non so che cos'è questa omertà. Ma che omertà, omertà, Io so che mi devo fare i fatti miei. E per farti i fatti tuoi, quindi K si mette a suonare lo scacciapensieri. No, più che suonare mi metto a schioccarmi la lingua contro il ferretto. Questa sarebbe l'omertà. Se a lui gli piace. E ora è il momento della grande musica, anzi, della musica. In diretta dall'asilo Stoppani di Milano, ecco a voi il mago Sylvian con il suo nuovo successo Misa Nabil. Misa Nabil, Misa Nabil. Ma please. Cos'è, no? Ma già non si può fare la musica Radio 24. Più facciamo queste cose qua con Misera Film, che tu che fai David Silvian, però che diventa il Mago Silvian. Mago Silvian. Ma chi lo capisce? Ma no, ma guarda che c'è già una comunità di fan su Facebook che inneggia a Mago Silvian, perché lui, infatti, dai. Ma sembra Anal Beam. Cioè? Borse in disfatta. I mercati sono in crisi e il baratto va alle stelle. Lo diciamo da mesi. Cosa contro cosa? Beni contro servizi. Sì, giusto, giusto. L'esigenza di un incontro dei corpi riporta al centro dell'economia quel do ut des che dell'economia è l'origine stessa. Okay, ma cosa stai dicendo adesso? No, cito un articolo paro di giornale qui, dati alla mano, sì, che è un giornale. Parla del baratto, vedi? Giornale in A4 della stampante. Però parlano del baratto, no? Sembra prendere spunto dal nostro mercatino globale. È pieno di articoli sui baratti dappertutto, ci sono ormai anche i listini, i bollettini, ormai si dicono le borse, insomma. Ma come? Borse. Anche già tutto borse del baratto in diretta. Sì, alluminio. Vabbè. Vale un rotolo d'alluminio vale 3 kg di pasta. Però voglio dire, ci sono anche dei servizi contro cose, quindi voglio dire bed and breakfast disposti a ospitarti gratis, anzi ospitarmi gratis, se in cambio gli tinteggio le pareti, no, capito? Se tinteggi le pareti tu, poi ti chiedono i danni. Ma no, infatti, come no? Infatti un po' questo è il discorso, cioè io sto rendendomi conto con questa cosa del baratto, dei servizi, di non saper far niente. Cioè io saper fare qualcosa è una cosa preziosa, io non so fare niente. Perché tu da piccolo invece di leggere i libri saresti dovuto andare da qualche artigiano e imparare un mestiere, capito? Usare la pialla, usare la lima. Anch'io direi così adesso, però chi ne aveva voglia quando ero un ragazzo? E tu hai imparato qualche mestiere da giovane? No, però io alla scuola svizzera avevamo la lezione di Handarbeit. Handarbeit, lavoro manuale. Quindi cosa facevate? Costruivamo delle cose, tipo il legno. Quindi adesso capace? Io me la cavo, sì, me la cavo. Riesco tutto per esempio a costruire delle cose con legno. Sì, molto utile. Sì. Ma se in casa si rompe qualcosa, no, tu non sei capace. No. Allora, solo costruire delle allora cose. Allora dovresti legno. Partecipare a uno swap party. Cioè, sai cosa sono gli swap parties? Sono incontri informali a casa di uno dell'altro per scambiarsi le cose. Ci si conosce su internet e poi ci si incontra e. Ti vedo un po' arrapato, perché non ho capito. Sì, perché sembrano anche sti swap parties una scusa per poi dopo. Cioè non è che fare gesti, dai. Ti dice, lo sai che puoi cucinare i peperoni nella lavastoviglie mentre la lavastoviglie lava i piatti? Sai che si può, sì, no? Li metti in un barattolo chiuso, 60 gradi, bla bla bla. Così mentre lavi i piatti fai anche da mangiare. Siccome però ci va un po' di tempo nella cottura. Una volta che ti ha fatto vedere che lo metti nel barattolo, lo metti nella lavastoviglie insieme ai piatti, insomma, fa andare, ci va con la mezz'oretta, no? Sì, non fare gesti. No, ho detto mezz'oretta. Tanto poi siamo alla radio, allora. Drago, ti scambi le cose e già che ci sei ti scambi anche le mogli. Ma basta, no? Dai. Funziona così. Ma scusa, ogni volta che parliamo di socialità su internet tu insinui che si tratta di una scusa per, voglio dire, cos'hai? Adesso i gesti li fai tu. Tanto si capisce di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di swap parties. Stiamo parlando di swap parties. Vabbè, ma fate quello che volete, swap parties, insomma, tanto si può pensare a un bed and breakfast fatiscente che ospita gratis in cambio di un restauro. Quindi, no? Va tutto bene. Ma anche un dentista che ti fa un'otturazione in cambio di un po' di cocco. Ma vabbè, ma questo. Perché magari è da solo lì tutti i giorni lì con la sua sedia. Parla con la sedia. Drago, ce n'è per tutti i gusti. Basta che non si usino più i soldi. E tutto andrà bene. Orsetto peloso. Dentista col pelo fuori dal camice. Per un po' di coccole mi metti un ponte, mi stacchi il provvisorio, mi fai tutto il lavoro per bene, ma le coccole al dentista penoso. E tutto questo è la canzone di Gildo? Oh, stiamo facendo la sigla qua. Scusate.